Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:08 minuti inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia e siamo sempre a Napoli, ci siamo spostati però dal centro di Napoli alla Fiera di Napoli, dove è in corso una fiera molto importante con centinaia di agenti di commercio. Parleremo anche di quanto difficile sia il mondo del commercio al sud. Grazie quindi a tutti i presenti, grazie per essere qui, se mi fate un bel applauso per favore. Ecco. Allora, così anche l'applauso chiamato ci mancava. Allora, parleremo di altri aspetti della capacità di riscatto che ha il nostro Mezzogiorno. Appunto, è iniziata con ieri la nostra Passione Sud, che era già iniziata con il GR di Radio 24 e continuerà la prossima settimana, sarà la volta della Puglia, poi andremo in Sicilia. Non parleremo chiaramente solo di Sud, perché ci sono altri temi oggi all'ordine del giorno. Intanto cercheremo nel finale di tenere assieme una settimana molto intensa dal punto di vista dei provvedimenti economici. È chiaro che mi riferisco alla conferenza stampa che è seguita al Consiglio dei Ministri di mercoledì scorso, oggi altre annotazioni, ma soprattutto a questo punto diventa fondamentale capire quello che verrà detto tra Angela Merkel e Matteo Renzi il prossimo 27 marzo a Roma. Per quello che riguarda la borsa invece, la giornata oggi è debole anche a Milano, che non fa eccezione a differenza di quanto accaduto nelle ultime giornate. Meno 0,90 al FTSE MIB, Francoforte più 0,35, Parigi meno 0,70%, con un'America che è sostanzialmente invariata sullo Standard & Poor's 500 più 0,1%, euro a quota 1,39, quindi sempre molto forte. Tra i titoli segnalo che è positivo praticamente solo il Monte dei Paschi più 2,80, Saipem più 1, Tenaris più 0,90% e Pirelli più 0,60. Anche segnaliamo anche CNH che guadagna lo 0,50%. Il calo invece è significativo su A2A meno 3,70, su Salvatore Ferragamo meno 3%, su Unipolsai meno 2,70, come Iux, Ubibanca meno 2,60, Mediobanca meno 2,20, Intesa San Paolo meno 2%, come la Popolare Emilia Romagna. Parleremo quindi di altre vicende, anche di casi di eccellenza, perché ricordo che il doppio binario in cui si muove questa iniziativa, che vuole andare a raccontare il Sud al di là dei casi di cronaca che già raccontiamo, fermo restando e avendo ben presente che non ripartirà mai il paese se non ripartono anche i consumi e la produzione nel nostro Mezzogiorno, massacrato più del resto del paese, che già è massacrato da questa crisi. Ma dicevo, il doppio binario è raccontare le difficoltà ma anche i casi di eccellenza. Nel giorno in cui commenteremo vari anche rapporti usciti anche sul nostro Mezzogiorno, 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Andiamo subito con le notizie in brevi. Notizie oggi, come sempre partiamo dall'estero per Eni, perché ha vinto la Saipem, la controllata dell'Eni, un appalto con Gazprom per 2 miliardi di euro per il South Stream e quindi il gasdotto che dovrebbe, questo ha un rilievo anche di carattere geopolitico, tagliare fuori l'Ucraina quando sarà completato, perché passerà attraverso il Mar Nero. Comunque 2 miliardi di euro di commessa per la costruzione del primo tratto offshore nel Mar Nero del gasdotto che porterà appunto il gas russo nell'Europa sud orientale. E commentavamo due giorni fa le dichiarazioni di George Soros, considerato uno dei guru della finanza mondiale, colui che, lo ricordiamo ogni volta, cacciò la lira dallo SME e poi anche la sterlina, speculando contro la lira e contro la sterlina. Soros, ricorderete, due giorni fa ha detto che sostanzialmente l'Europa non riuscirà a uscire da questa seconda crisi che si è beccata solo lei se continuano ad essere applicate le politiche tedesche. Oggi è la volta di un altro guru della finanza, mi riferisco a Warren Buffett, che in un'intervista alla CNBC ha affermato che un giorno ci sarà un'altra crisi finanziaria che sconvolgerà i mercati finanziari. Non sarei affatto sorpreso se i prezzi delle azioni a livello mondiale crollassero del 50% rispetto al loro attuale livello. Nei prossimi 50 anni, ha detto Buffett, gli esseri umani torneranno a comportarsi in maniera pazzesca. È difficile che lo facciano nei prossimi anni perché sono ancora scottati dall'emergenza. Per un po' vi sarà un po' più di attenzione e poi invece torneremo a creare una nuova crisi finanziaria. Se questo non è un gufo per Warren Buffett, non so cosa lo possa essere, anche perché lui si occupa dei prossimi 50 anni, noi vorremmo occuparci dei prossimi 50 giorni, quelli di Renzi, e dei prossimi 50 mesi, quelli per tornare ai livelli di produzione come il 2007. Il gufo per Buffett. Eccolo lì, l'ultimo immancabile. Allora, andiamo all'Ucraina. Già i nostri GR vi hanno raccontato delle nuove tensioni. La borsa di Mosca oggi ha segnato un nuovo crollo, meno 5%, poi si è parzialmente ripreso durante la seduta, ha chiuso con un meno 1,3% dopo le dichiarazioni di John Kerry, segretario di Stato americano, e anche dell'Europa, pronti a dure risposte se la Russia va avanti. Kerry oggi ha visto Lavrov a Londra. E l'Ucraina continua a cercare aiuto a Washington, mentre il premier della Repubblica di Crimea, Sergei Aksinov, ha detto: spero che Kiev accetti l'esito del referendum, che è legittimo e sarà trasparente. Noi siamo pronti a tutto. E poi ha aggiunto: i giornalisti sono al sicuro, garantisco personalmente. Sembra quasi un'escusatio, non petita. E poi la dichiarazione che Mosca si riserva il diritto di proteggere i propri connazionali, lo ha detto il ministro degli esteri russo, prendendo posizione sugli scontri avvenuti ieri appunto a Donetsk, Ucraina meridionale, tra filo russi e filo Kiev. Per quello che riguarda l'Europa, tutti riportano la vicenda, ce ne siamo occupati molto anche noi nei GR, del presidente del Bayern Monaco, Uli Hoeneß, condannato a 3 anni e 6 mesi di prigione per evasione fiscale. Ha evaso 27 milioni di euro. So che molti fanno paralleli con la politica italiana, però è, al di là di tutto, è interessante. Noi spesso critichiamo la Germania, ma insomma il patron del Bayern Monaco, condannato in primo grado a 3 anni e 6 mesi, ha detto: vado in carcere, rinuncio alla richiesta di appello, e quindi dopo aver parlato con la mia famiglia ho deciso di accettare il giudizio in tribunale. Ho incaricato i miei legali di non andare in appello. Questo corrisponde al significato che do al decoro, al comportamento e alla responsabilità personale. E spostiamoci all'Italia. Allora, mentre il portavoce di Angela Merkel dice che il governo tedesco è consapevole dell'ambizioso progetto di riforme del governo Renzi, ma non ha voluto anticipare i contenuti dell'incontro di lunedì appunto tra Matteo Renzi e Angela Merkel, la cancelliera non dà nulla per scontato. Uno dei temi principali sarà quello delle riforme proprio in Italia. Il commissario della Spending Review italiano, Cottarelli, ha illustrato di nuovo le proposte al comitato interministeriale, ma è arrivata una doccia fredda dal Financial Times, perché oggi scrive il quotidiano britannico: attenzione, la medicina di Renzi non curerà l'Italia, il taglio delle tasse sulla fascia bassa dei salari non aumenterà la competitività. Beh, se è permesso rispondere al Financial Times, è verissimo, infatti il taglio del cuneo fiscale sui redditi più bassi non serve a aumentare la competitività, serve a far ripartire, forse, speriamo, un po' di consumi interni. La competitività la migliori in altro modo, e la migliori rendendo più efficienti e produttive e con minor tipo di lacci, lacciuoli burocratici le nostre imprese, oltre che riformando il mercato del lavoro, creando maggiore flessibilità, che non vuol dire solo precarietà. Ma non voglio tornare sul tema di alcune garanzie che potrebbero essere riviste a patto di ottenere più soldi in busta paga. E poi via libera del Consiglio dei Ministri alla stretta contro i cartelli del farmaco. Ricorderete la vicenda che ha coinvolto la multinazionale Roche, il caso Novartis Roche, avete sentito nel nostro GR il ministro Lorenzin, anche perché l'antitrust ha dato una multa da 180 milioni di euro. Ma c'è il rischio che il danno sulle casse dello Stato sia più pesante, perché aver optato per un farmaco molto più costoso rispetto a un altro ha già avuto un danno per il nostro erario di decine di milioni di euro. È arrivata invece sull'Italia anche l'analisi di Fitch, una delle 3 agenzie di rating, che dice l'Italia avrà una ripresa modesta quest'anno, più 0,6%, più 1% nel 2015, i consumi resteranno fermi, è improbabile che l'area euro conosca la deflazione, ma c'è un rischio di prezzi in calo nei paesi periferici e nei paesi del sud Europa. E poi il botta e risposta tra il neo ministro del lavoro Giuliano Poletti e la segretaria della CGIL Susanna Camusso. Poletti dice nel Jobs Act vi saranno misure per 1.680.000 lavoratori, sono quasi il 70% dei 2.400.000 contratti di avviamento che abbiamo oggi. E sappiamo infatti che verrà cambiato l'apprendistato per i giovani, non ci sarà più l'obbligo di confermare i precedenti apprendisti prima di assumere nuovi, i contratti a termine verranno estesi fino a 3 anni, salta l'obbligo di pausa tra un contratto e l'altro, poi semplificazioni sulle forme contrattuali e poi tutte le sociali, nascerebbe un sistema di garanzia universale in caso di disoccupazione involontaria. Ma ha risposto da Palermo Susanna Camusso, che ha detto il provvedimento del ministro del lavoro Poletti introduce ulteriore flessibilità e precarietà. E poi invece il giudizio che è arrivato oggi a margine della presentazione del rapporto dell'Agicom del numero uno di Telecom Italia, Marco Patuano, sulle iniziative del governo Renzi. Beh, stiamo andando sicuramente nella direzione giusta. Ridare fiducia ai consumatori è di straordinaria importanza. Le misure che sono state adottate sono anche visibili, sensibili, quindi i tempi sono stati rispettati. Confido che tutta la parte della normativa sul lavoro sia altrettanto importante e, come ho spesso detto, anche aziende come noi, come Telecom Italia, noi abbiamo bisogno di tornare ad assumere, ma per tornare ad assumere servono le condizioni per tornare ad assumere e quindi stiamo andando nella direzione giusta, spero che si continui. Allora, noi ripartiamo da Passione Sud, visto che abbiamo anche un pubblico numeroso. È un pubblico, lo dico oggi, ieri avevamo gli studenti, gli imprenditori, oggi sono soprattutto agenti di commercio. Infatti si sta tenendo proprio qui alla Fiera d'Oltremare un'importante iniziativa per mettere assieme richieste delle imprese nel mondo del commercio, perché spesso diciamo come uno e raccontiamo come uno degli elementi di debolezza del nostro modello di impresa siano strutture commerciali. Noi ci riferiamo soprattutto all'export, troppo slabrate, troppo deboli, e cercare di mettere assieme il gente di commercio con quelle che sono le richieste delle imprese verso il mezzogiorno. Parleremo anche di un caso invece completamente diverso, già ieri vi accennavamo alla vicenda della Micron, o Micron per meglio dire all'inglese, dove sono a rischio decine di ingegneri, perché non parliamo di lavoratori, ma parliamo normali, ma di ingegneri. Micron è una multinazionale americana che sta, non dico dismettendo, ma riducendo notevolmente la sua presenza in Italia. Sarebbe interessante capire perché va a produrre in paesi dove il costo del lavoro è più alto rispetto all'Italia, penso alla Germania o agli Stati Uniti stessi. E poi racconteremo invece anche di un caso di eccellenza. Partiamo da Davide Ricci, che è presidente appunto di Agenti.it, che ha organizzato questo evento. Voi avete 25.000 agenti solo nel mezzogiorno, solo in Campania, Sicilia e Puglia, quindi dove andremo anche con le nostre prossime tappe. Mi dica una cosa, perché noi ci occupiamo sempre delle reti commerciali per quello che riguarda l'export, ma prima dell'inizio della diretta lei mi faceva notare che c'è un problema anche di struttura di rete commerciale per quello che riguarda le imprese del paese verso il mercato del nostro mezzogiorno, in questo caso della Campania. Prego. Sì, assolutamente sì, è il motivo per cui abbiamo fatto appunto Forum Agenti qui a Napoli, appunto Forum Agenti Mediterraneo, proprio perché spesso le aziende italiane, vuoi anche per un discorso di moda, fa è molto di moda. Bello. Ma che faccia bello, che i soldi sono fuori però. Sì, i soldi sono fuori, però molto spesso abbiamo dei soldi in casa, ad esempio il Sud, questo chiaramente sono opinioni di nostre personali, il motivo per cui abbiamo investito su questa manifestazione qui in Campania, e quindi apriamo magari filiali all'estero, perché andare a lavorare all'estero non è facile, non è che uno si sveglia la mattina e dice ok, domani porto i miei prodotti in Francia, perché oltre a dover fare degli investimenti, dover formare il personale qualificato che deve essere almeno bilingue, perché deve poter parlare con me che ho un'impresa in Italia e parlare anche con il mercato di riferimento, che sia francese, che sia tedesco, quello che sia, per non parlare poi della logistica, cioè portare delle merci all'estero non è sempre così semplice. Quindi abbiamo constatato che in molti casi non si rendono conto che i mercati esteri poi sono qui. Infatti noi abbiamo detto che il sud è un po' l'internazionalizzazione nostrana, se vogliamo, no? Sono mercati che spesso non vengono guardati. È un po' come se io decidessi, non so, di partire o da Roma o da Milano per andare a vedere la muraglia cinese, senza essere andato a vedere magari Pompei, per parlare di... Sì, ma qui c'è, allora, qui c'è un problema di così. È chiaro che i soldi in questo momento sono all'estero, certo. I consumi sono all'estero e le imprese italiane che si stanno salvando sono quelle che sono più orientate all'export. Indubbiamente. E questo è un dato di fatto. Ovvio però dire che non si può dimenticare che quasi metà del paese, quindi anche dei consumatori del paese, vive nel nostro centro-sud. Voi notate una, cioè, resistenza, una maggior propensione a dire se devo reperire degli agenti per l'est Europa oppure per altri mercati, ci metto più impegno o meno interesse per quello che riguarda il mercato del nostro mezzogiorno? Sì, assolutamente, delle volte sì, a parte rarissime eccezioni. Dipende anche molto dal settore, perché ci sono dei settori, perché i consumi non sono tutti uguali. Quindi in Italia ci sono, al nord ci sono dei consumi particolari di beni e servizi di un certo tipo, al sud di altri. Però molto spesso, per esempio per l'estero, si tenta di approcciare l'estero pensando che sia una sorta di Italia dove ci sono più soldi, e spesso non è così. Quindi ci sono delle difficoltà oggettive. Diciamo che per un italiano sarebbe molto più semplice investire magari un po' meno al sud di quanto è all'estero, e ci sarebbero delle scoperte interessanti, perché non è vero che al sud i clienti non pagano, ci sono i clienti che pagano, altrimenti non avrebbero più merce. Mi dica una cosa, ma avete trovato, diciamola tutta, ma avete trovato anche delle resistenze di carattere, diciamo, mentale, oltre che oltre che sul mercato? Mi dica. Sì, purtroppo sì, perché noi ci siamo accorti, facendo una manifestazione nello specifico a Napoli, che c'è anche un po' del razzismo da questo punto di vista. So che è una parola un po' forte, attenzione, però quando abbiamo proposto alle aziende di venire, diciamo, a Napoli, il problema era quasi proprio per dire no, a Napoli magari rubano le macchine, cioè ci sono delle grandissime resistenze che fanno perdere di vista poi invece a Napoli sono dei consumi, adesso dico Napoli piuttosto che Campania, vissuta come hub per il sud sostanzialmente, un po' come una liaison con quello che è il sud dell'Italia, e abbiamo visto che molte aziende hanno preferito glissare e dire no, vabbè, magari preferiamo di no perché andiamo in Francia piuttosto che in Germania, quando invece veramente al sud c'è gente che lavora e ci sono dei professionisti nell'ambito degli agenti di commercio che sono in grado a volte di fare per alcune aziende la fortuna, perché le aziende che effettivamente credono nel sud poi la fanno un po' da padrone, perché tutti i giorni le persone vanno al supermercato, spendono, comprano abiti, consumano beni di ogni tipo. In alcuni casi ci sono dei consumi al sud che sono superiori proprio a quelli che sono. Sì, però al di là della paura che ti rubino la macchina, perché uno può venire anche in treno, onestamente, il punto è un altro. Lei citava il tema dei pagamenti. Allora noi sappiamo, certo, che per esempio la pubblica amministrazione al sud paga anche peggio della pubblica amministrazione nel resto del paese. Addirittura abbiamo avuto casi di imprenditori che non vengono più nemmeno assicurati quando hanno un debito nei confronti di una ASL, era una ASL della Campania, non mi ricordo se fosse, sì, di Napoli. Tanto c'è poca è la fiducia che poi le ASL in questo caso possono pagare. Ecco, sul fronte dei pagamenti però c'è un tema rilevantissimo, un tema che vale per tutte le aree in cui uno si sposta. Abbiamo fatto intere puntate sul tema dei pagamenti in Cina 7, 8, 10 anni fa, sul tema dei diritti di proprietà, per cui da questo punto di vista la vostra esperienza è che ci sia anche un grosso luogo comune o che cosa fa la differenza? Perché il tema dei pagamenti poi è fondamentale se tu hai una rete commerciale. Certo, ma secondo noi fa la differenza la persona che rappresenta poi sostanzialmente l'azienda, cioè se io ho dei buoni clienti e vendo un prodotto, quindi rappresento un'azienda, perché gli agenti di commercio sono degli intermediari del commercio, come dicevamo prima, movimentano il 70% del PIL italiano, quindi non è che naturalmente ci sono le reti commerciali che sono formate da dipendenti, quelli sono dei dipendenti del settore commerciale classici, ma poi ci sono gli agenti che percepiscono una provvigione in base a quello che è il venduto e la prendono soltanto se il cliente paga, quindi è il loro interesse vendere a clienti che pagano. Però sicuramente non è semplicissimo, ma ci sono anche tanti clienti che non pagano al nord. Dipende sempre dalla persona. Ecco, ma voi da questo punto di vista state facendo anche reclutamento, job recruiting? Come assolutamente sì, noi questa è una fiera proprio di recruiting, cioè nel senso che noi abbiamo invitato le aziende a venire al forum agenti che cercavano degli agenti, le quali naturalmente hanno pagato per essere qui e per poter, diciamo, offrire il loro lavoro, e abbiamo invitato gli agenti che erano interessati a vendere quelle aziende. La novità di questa cosa qui è che si va in un posto dove ci sono migliaia di agenti di commercio e le aziende parlano con tutti quelli che possono essere potenzialmente interessati. Subito. Mi dica l'elemento di maggiore speranza, se non dico di ottimismo, che ha riscontrato e quello invece più negativo. Allora, la speranza è stata quella che stamattina, quando abbiamo aperto, diciamo, i cancelli, usiamo, diciamo, un'immagine di questo tipo, la gente era tanta, quindi c'era la voglia e soprattutto erano tutte persone che già lavoravano, non c'erano soltanto persone alla ricerca del primo lavoro, fermo restando che poi è venuta anche una scolaresca all'ultimo anno, dove abbiamo fatto un'iniziativa interessantissima, cioè gli abbiamo fatto fare il loro primo colloquio di lavoro, cioè abbiamo anche, fatto anche l'ultimo, visti i tempi che corrono. Comunque, speriamo di no, incrociamo le dita, caspita, cioè facciamo qualcosa, cioè facciamo iniziative. E la parte più negativa? La parte più negativa è stata sicuramente quella che rispetto alle aziende che volevamo portare erano meno, perché c'erano proprio dei preconcetti di tipo resistente. Assolutamente tante, sì. No, importante, ne prendiamo atto senza tanti commenti, che ci sia una maggiore forse disposizione e voglia ad andare a esplorare mercati esteri che non anche mercati interni a casa nostra. Sì. Io vi auguro in bocca al lupo, perché crepi lupo. Vedo sempre moltissimi crepi. Agenti qui, è un settore importante. Quanti sono gli agenti di commercio in Italia in tutto? Sono 240.000. 240.000, per cui stiamo parlando di un colosso, se fosse una multinazionale sarebbe un colosso per le nostre dimensioni. Dà un messaggio comunque di speranza e anche di iniziativa, di incrocio tra domanda e offerta. Invece andiamo, ci spostiamo a un mancato incrocio tra domanda e offerta. Allora, il gruppo è un gruppo americano, si chiama Micron, ha appunto sede negli Stati Uniti e tantissimi stabilimenti sparsi in giro per il mondo, ne ha alcuni anche in Italia e ne ha uno anche ad Arzano, se ho ben capito, in provincia di Napoli. In Italia ha 1000 dipendenti, sono quasi tutti ingegneri, c'è una vertenza in corso per 420 persone, di cui sui 120 dipendenti del sito di Arzano sarebbero 52 gli esuberi. Le altre sedi sono in Lombardia, in Sicilia, in Abruzzo e in Veneto. E accanto a noi l'ingegnere Augusto Rondinone, che lavora alla Micron. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Noi citiamo sempre, perché sono i casi più ricorrenti, i tassi di disoccupazione giovanile, femminile e nel nostro mezzogiorno. Io dico sempre che se uno è una donna, è giovane e abita al sud, al massimo della sfiga possibile in questo momento con i dati che noi vediamo alla mano, e ci dimentichiamo per colpa nostra ogni tanto anche degli elementi disoccupazionali, di disoccupazione che arrivano per gli over 50 cosiddetti, e che vanno a colpire anche fasce che notoriamente si ritiene meno toccate dalla disoccupazione, meno toccate dalla crisi, e gli ingegneri sono un caso. Allora, voi siete quasi tutti ingegneri che rischiate, se ho ben capito, la chiusura dell'impianto stesso. Vorrei sapere se la Micron, anzi come la Micron ha giustificato questa iniziativa e dove andrà a produrre. Allora, grazie per questa opportunità. La Micron, le motivazioni ufficiali di questi tagli sono per migliorare l'efficienza organizzativa. Per fare questa cosa vuole spostare alcune funzioni all'estero. Quando parliamo di estero non parliamo di paesi low cost, non stiamo parlando di spostare produzione, ma stiamo parlando di spostare funzioni come design, ingegneria, marketing, di personale laureato, e di spostarli negli Stati Uniti, in Germania, Singapore, dove il costo dell'ingegnere medio è anche più alto. Quindi noi siamo un po' spaesati, un po' confusi, perché questa vertenza ci è venuta tra capo e collo a gennaio, quando abbiamo chiuso a dicembre l'anno con un fatturato che è cresciuto del 40%, forti utili, premi, noi tutti abbiamo avuto dei riconoscimenti, stiamo parlando di soldi, azioni, e all'improvviso hanno detto no, ma voi siete bravi, però queste funzioni per migliorare l'efficienza le dobbiamo spostare o vicino all'headquarter o vicino allo stabilimento di produzione. E questo è strano, perché se l'azienda ha avuto dei risultati ottimi lavorando così come abbiamo fatto fino a ieri, com'è che all'improvviso non siamo più efficienti? Ecco, lei però una risposta se la sarà data, nel senso che qui non stiamo parlando di una delocalizzazione dove il costo del lavoro è più basso, non sono ingegneri indiani, per dirla tutta. Allora, se avete fatto più 40% nel fatturato e avete avuto utili in aumento, non è che alla Micron sono impazziti, ci deve essere qualcosa sotto. Allora, noi possiamo avere delle idee, perché quella che è la motivazione ufficiale naturalmente non ci convince. Qualche idea può essere il fatto delle politiche aziendali probabilmente non attuabili in Italia. Per esempio, loro ad agosto avevano annunciato una riduzione del personale worldwide del 5% a seguito dell'acquisizione di una ditta di memorie giapponese e con portare, diciamo, sul groppone altre 6.000 persone. Quindi questo 4% worldwide è diventato il 40% in Italia. E il dubbio che possiamo avere noi è quello lì, che in passato loro hanno cercato di fare in Italia delle politiche più che di riduzione delle persone, di selezione. Quindi loro ci hanno raccontato che questa riduzione del 5% sugli altri siti l'hanno fatta basata sulle performance. Cioè l'ingegnere, che era quello che viene chiamato low performer, veniva licenziato. In Italia sembra quello a basso rendimento. A basso rendimento. E questo invece in Italia non è possibile. Questo non è possibile. In Italia quello che si può fare è il licenziamento collettivo. Certo. E facendo questo, alla fine poi, diciamo, c'è qualcosa di strano, perché poi in questo modo non vai più a licenziare quelli che lavorano peggio, vai con un taglio lineare, licenzi buoni e cattivi, ti tieni buoni e cattivi. Quindi questo io mi rendo conto che questo sia un tema delicatissimo, perché poi adesso verrò invaso da sms, di insulti, come quando abbiamo parlato dei permessi da rendere non più obbligatori ma facoltativi in alcuni casi, non della 104, lo dico a chi ci ha scritto, la 104 al massimo rispetto, ci mancherebbe, ma ragionavamo su alcune forme di garanzia che valgono solo per i dipendenti, visto che qua siamo in mezzo agli agenti, un agente se sta malato è malato e basta. Allora si ragionava e si diceva, in cambio di più soldi in busta paga sareste disponibili a avere non i permessi obbligatori che magari non uso e averli facoltativi, magari permessi non retribuiti, per cui devi accompagnare tua figlia alla recita o parlare con i genitori, però è difficile che l'impresa poi ti possa pagare su questo. Trovare una forma per cui ti restano più soldi in busta paga, ma anche l'impresa ne ha un vantaggio. Qui siamo su un caso diverso, e mi riferisco al caso in cui, se ho ben capito, il vostro sospetto è che non potendo fare, diciamo, ridurre gli ingegneri del 5%, come ha fatto in altri casi all'estero la Micron, perché non esiste la possibilità di dire tu hai un rendimento più basso della media e rientri in quella categoria, qui la Micron vada a chiudere e basta l'intero impianto. Prego. Sì, allora, questa naturalmente è una nostra ipotesi. Ora, a noi fa piacere che si parli della nostra vertenza, ci darà maggiore potere, già le istituzioni ci stanno supportando, c'è un tavolo aperto con il Ministero, il MIS e le regioni. Però io vorrei un po' allargare la discussione, cioè noi abbiamo sempre parlato, ho sentito parlare, e ne sono interessato come ingegnere, di come attrarre in Italia multinazionali, come far sì che queste multinazionali, invece di andare ad investire in Germania, negli Stati Uniti, nel Far East, vengano a investire in Italia. Allora, questo praticamente non c'è una politica che lo fa, e il campanello di allarme è ancora più grave, perché chi c'è vuole andarsene. Quindi c'è qualcosa in Italia che non funziona. Allora, su questo i motivi principali, voglio essere molto chiaro. Da un lato abbiamo una giustizia amministrativa, e quindi civile, che non dà tempi certi, una burocrazia che uccide qualunque iniziativa di un'impresa estera, e poi, perché voglio essere, c'è anche il tema dei contratti di lavoro. Allora, è chiaro che se ogni volta che si parla di riformare il mercato del lavoro la flessibilità viene interpretata come precarietà, non ci capiamo. Allora, teniamoci tutte le garanzie del mondo, senza però contratti a sto punto, perché se continuiamo a ridurre l'occupazione così, da qualche parte il fenomeno andrà preso. Alle 17:43 minuti riprende Focus Economia, siamo in diretta dalla Fiera di Napoli, grazie, per parlare di casi di speranza come con reti di agenti commerciali. Tra l'altro avete pure beccato la pubblicità dentro Focus Economia, giuro che non lo sapevo, di casi di difficoltà e poi invece anche di casi di riscatto, però che non possono restare isolati. Volevo concludere con l'ingegner Rondinone della Micron. Allora, il discorso è molto chiaro, tanto so già che creerò un casino, però dopo quello che lei ci ha detto, cioè che la multinazionale Micron riesce in altri paesi, ha dovuto ridurre del 5% gli ingegneri perché ha assorbito 6.000 dipendenti di un gruppo giapponese e ha messo, diciamo, in mobilità, diciamo, è andato a casa, gli ingegneri che avevano le performance più basse, cioè una valutazione su come ti comporti. Lei mi ha detto, il nostro sospetto è che non potendolo fare in Italia si preferisca ridurre in maniera lineare, orizzontale, i 52 esuberi solo nel vostro stabilimento ad Arzano, in provincia di Napoli, sono 1.000 dipendenti e c'è una vertenza che riguarda 420 persone su tutto il territorio nazionale. Il sospetto è che non potendo operare gli esuberi selettivi si vada a fare esuberi diciamo, che tagliano tutto, i buoni e i cattivi. Voi sareste disponibili a proporre alla Micron un accordo per cui, cioè, valutaci se c'è un 5% di esuberi, però non far fuori, diciamo così, tagliando in maniera orizzontale? Allora, questa è una discussione che spesso facciamo con i colleghi americani, perché loro di fatto da un giorno all'altro possono essere licenziati, cosa che non è possibile in Italia, licenziamento individuale. Allora, secondo me, io come posso parlare per me, a me mi sta bene. Però stiamo parlando di due ecosistemi diversi, cioè in America colleghi che sono stati licenziati, anche amici, dopo massimo un mese hanno trovato lavoro, forse anche migliore, in un'altra azienda importante. A me, se la Micron mi licenzia, in Italia c'ho solo l'ST Micro Electronics, nello stesso segmento, tra l'altro è l'azienda che ci ha venduto alla Micron, altrimenti io sono qui per vedere ad agenti.it, qui per vedere se riesco a trovare uno sbocco differente, però sto cambiando funzione, sto cambiando lavoro, perché altrimenti mi devo spostare o negli Stati Uniti o in Germania, in Asia, e con mia moglie c'ho un po' di problemi, con le bambine che vanno a scuola. Cioè lei ha ricevuto già offerte dall'estero, ma non in Italia, diciamo. Ci sono opportunità all'estero, ci sono opportunità all'estero, anche molto, diciamo, offerte molto più alte dello stipendio attuale mio. E qual è la sua resistenza ad andarsene? La famiglia, i legami privati? Di fatto è il radicamento sul territorio della famiglia, dei bambini che già stanno a scuola, spostali o in Germania, in Italia, in Asia, con un'altra lingua. Diciamo, la scelta di restare in Italia l'ho fatta quando mi sono laureato. E adesso, se lo devo fare, è un po' più complicato. No, capiamo, però adesso vedo già molte polemiche sugli SMS, però attenzione, è giusto parlare di tutto, poi non può non essere d'accordo, ci mancherebbe, e dire che stiamo cercando. Io ho sempre sospetto che si crei un po' di terrorismo quando si confonde la precarietà, che sicuramente non è un elemento diciamo gradevole, con la flessibilità, perché sono due cose diverse. Se poi si vuole fare il ragionamento che ogni volta che si introduce un po' di flessibilità, anzi che dovrebbe essere soprattutto di carattere meritocratico, vado a valutare gli ingegneri che lavorano bene, se il 5% non mi lavora bene lo manderò a casa. Ieri dicevo al governatore della regione Campania Caldoro che manco gli uscieri dei musei di Santa Maria Capovetere, che non si fanno trovare sul posto di lavoro, si riesce a licenziare in questo paese. Andrebbero licenziati, non me ne frega nulla, cioè non è possibile avere un paese diviso in due in cui c'è chi si becca tutta la flessibilità possibile perché sta sul mercato e chi non è licenziabile neanche se non si fa trovare sul posto di lavoro perché i sindacati dicono che è un attacco al diritto del lavoratore. Ma basta, abbiamo la disoccupazione che ha raggiunto i record storici, da qualche parte prendiamolo, ma non per precarizzare tutti come temono altri, ma per andare verso un merito. Io sono convinto che la Micron, insomma, abbia anche un interesse nel produrre qui. Quindi il tema è aperto, insultatemi pure, alcuni lo stanno già facendo ampiamente, evidentemente si preparano a passare un bel fine settimana, ma io resto dell'idea, continuare a fare il cortocircuito tra flessibilità uguale precarietà è sbagliato, vuol dire mettere nello stesso calderone buoni e cattivi e continuare a non essere attraenti, fermo restando che, lo so che devo chiudere Bianchi, fermo restando che da questo punto di vista prima sistemiamo anche la giustizia civile e la burocrazia, cioè non è che ci limitiamo ai contratti di lavoro, è una burocrazia aberrante per quello che riguarda l'approccio di un investitore straniero, ma attenzione, su questo il terrore che poi se tu assumi qualcuno in Italia o licenzi tutti, cosa che sta avvenendo a voi, oppure non puoi fare scelte meritocratiche all'interno, è un terrore che i gruppi esteri, piaccia o non piaccia, hanno. Se poi vogliamo immaginare un altro mondo, immaginiamolo pure. Eccolo lì, e chi decide chi lavora bene o chi lavora male? E chi lo deve decidere? Facciamo un referendum, lo deciderà il capo, il manager, ma ragazzi funziona così dappertutto, poi uno può non essere d'accordo, di solito chi viene giudicato tende quasi, se è giudicato negativamente, a non essere d'accordo con chi lo giudica, capita dalle scuole dell'obbligo in poi, no? La professoressa mia, però diciamo da qualche parte uno dovrà essere anche giudicato o quando uno è dipendente non lo giudichiamo più. Ripeto, se fosse tutto il paese così mi andrebbe anche bene, ma abbiamo metà del paese con il massimo delle garanzie e metà del paese che ha garanzie pari a zero. Possiamo cercare di arrivare, diciamo, a un punto di incontro tra i paria e, diciamo, e i bramini? Ecco, si può trovare un punto di incontro? Secondo me sì. Chiuso, grazie anche all'ingegnere, in bocca al lupo, a tutti i 1050 dipendenti, di cui 420 in esubero, cioè, che rischiano di perdere il lavoro, molti ingegneri, grazie quindi all'ingegnere Augusto Rondinone. minuti, mi chiedete se voglio includere anche i giornalisti in questo ragionamento. Certo, perché i giornalisti non possono essere valutati sulla loro produttività, ci mancherebbe. A tutti il pubblico impiego, partiamo da lì, il settore privato spesso già lo è, i giornalisti, tutti, voglio dire, se stiamo sul mercato ci stiamo tutti, se no facciamo categorie protette per tutti, ma devono valere per tutti, anche perché in questo modo chi ha un contratto nel pubblico impiego o in categorie protette sta bello protetto e i giovani li mettiamo tutti coco pro o li trasformiamo in parità IVA, per cui c'è ci sono i paria e i bramini all'interno della stessa fascia e poi i paria e i bramini anche a livello generazionale. Comunque voglio chiudere con un elemento positivo. Paolo Scudieri è il numero uno di Adler Group, ha ricevuto un premio anche da Barack Obama, lei Scudieri. Mi dice che cosa è venuto in mente di aprire un centro di eccellenze campane in via Brin, che è praticamente una periferia di vecchi capannoni abbandonati, raffinerie e industrie dismesse? Ma il ragionamento arriva da rendere merito, come dicevamo prima, rendere merito alle cose buone che i territori, in questo caso la Campania, possono offrire. Tanta pubblicità, tanta battage sul discorso della terra dei fuochi, che rappresenta pochissimo sul territorio campano, il 2%. Dall'altra parte una possibilità di affermare dei prodotti che hanno tradizione, che hanno cultura, che hanno lavoro vero da parte di chi intraprende un'attività nell'enogastronomia, nell'agroindustria, eccetera. L'investimento a quanto ammonta? L'investimento è circa 6 milioni di euro. È un investimento fatto con l'idea di portare oltre a Napoli questo format che premia l'uomo, che premia le tradizioni, che premia la ridistribuzione della catena del valore sul prodotto. E cioè voi adesso, ma perché è nato in quella periferia? Glielo dico senza provocazione, però andare in via Brin in mezzo a raffinerie, industrie dismesse, non è come fare, diciamo, nel centro città, nel centro storico. Ma di centro ormai credo che ne abbiamo tutti estrema conoscenza, delle periferie dobbiamo valorizzarle, Io faccio un parallelo con una città stupenda che è New York, che aveva delle periferie orrende, dove andarci voleva dire essere preda di possibili aggressioni, e che oggi invece si vivono con grande respiro, si vivono di sera, si vivono di giorno, con la consapevolezza di girare su luoghi positivi. Parlo di Harlem, parlo di quindi tanti quartieri recuperati. Di fatto ha cercato di recuperare un pezzetto, un certo. periferico abbandonato di Napoli. Certo. Con che risultati? I risultati sono incoraggianti. La sera a mezzanotte bambini con genitori e passeggini camminano fino a due mesi fa era impraticabile. Ciò vuol dire che quando si porta il buono si abbatte quello che sono gli eventi negativi. Mi dica una cosa, sì o no, l'amministrazione comunale l'ha seguita? L'amministrazione è stata attratta dal progetto, ha capito che forse era una roba su cui poteva un po' spendersi un po', e quindi forse ha dato un piccolo aiuto nella burocrazia, nell'espletare tutta quella roba che uccide l'iniziativa. Ecco, dopo il GR vorrei sapere perché di progetti così, visto che gli imprenditori ce ne sono anche in campagna e anche di coraggiosi. Diciamo spesso che fare l'imprenditore qui è più difficile che farlo nel centro nord del paese. Perché non emergono di più? Che cosa manca anche dal punto di vista dell'amministrazione comunale? Intanto grazie a tutti voi, lei resti con noi. E 8 minuti riprende Focus Economia. Vi ricordo che siamo in diretta dalla Fiera di Napoli per questa seconda puntata di Focus Economia di Passione Sud. I nostri GR hanno già iniziato da lunedì, continuerà questo viaggio nel nostro sud fatto di drammi e di difficoltà anche più grosse rispetto al resto del paese, ma anche di speranze e iniziative. Ripeto, la cosa più sbagliata che si possa fare è guardare il sud intanto come se fosse un unico omogeneo e compatto luogo. Sono tanti sud, e di guardarlo solo con le lenti degli stereotipi. Però una risposta la devo dare sul tema del merito, e se non posso fare la puntata su questo devo fare anche la borsa adesso. Ma attenzione, alcuni scrivono: sì, ma chi valuta il merito? Perché i capi apprezzano gli yes men, i lecca, diciamo, i lecchini. Altri scrivono: sì, bene, così poi verrebbe premiata. Addirittura c'è chi avanza ipotesi di carattere di ricatto sessuale. Allora, mettiamola così: tutto può essere, ci mancherebbe, però se il merito esiste dappertutto, è ovvio che anche il capo, il manager, che valuta su principi non meritocratici i suoi dipendenti, poi ne pagherà le conseguenze. Perché se tutti vengono valutati, perché se poi il capo dipartimento non viene valutato, oppure se il manager non viene valutato, è un altro discorso. Ma in una logica meritocratica, tu premi la segretaria per motivi indipendenti, diciamo, o la collaboratrice per motivi indipendenti dal merito, o premi il collaboratore per motivi indipendenti dal merito, te ne assumerai la responsabilità e le conseguenze quando la tua azienda inizierà ad avere numeri bassi e qualcuno, l'azionista, ti dirà: scusami, vai a casa. Quindi è un rischio che ti prendi, ma se continuiamo a usare questo ragionamento non se ne esce. E ripeto, fossimo tutti nelle stesse condizioni si potrebbe fare un ragionamento, ma qui abbiamo due mondi che non si toccano: chi ha tutti i diritti garantiti e chi ha zero diritti garantiti. Allora, vorrei chiudere con Paolo Scudieri, che tra l'altro ha messo in piedi questa iniziativa bellissima nella periferia degradata di Napoli, creando una specie di Italy che ha riqualificato per la gente che ci vive un'area fatta di raffinerie, di industrie dismesse, via Brin per la precisione. Ma è anche a capo di un gruppo internazionale, l'Adler Group, che fattura 1 miliardo di euro e che si occupa di automotive. Quindi lei questa cosa, l'eccellenza campana, l'ha fatta come iniziativa quasi civica, se mi permette il termine. Mi dice che cosa manca, perché e che cosa manca all'amministrazione, in questo caso comunale, ma la pubblica amministrazione in generale, per aiutare per fare in modo che altri imprenditori prendano iniziative simili alle sue. Bisogna dare spazio e libertà all'impresa, all'imprenditore, di intraprendere e quindi di rischiare di proprio, ma avere dei presupposti, delle basi su cui poggiare l'investimento, quindi fare il minimo indispensabile. La prima cosa importante è cercare di azzerare o diminuire in modo sostanziale la burocrazia. Per mettere su un'iniziativa come Eccellenze abbiamo lavorato oltre 2 anni per avere una serie di autorizzazioni. Abbiamo dovuto faticare tantissimo. Allora ci vuole veramente una grande passione per portare avanti un progetto. Se questi vincoli, questi freni, queste ancore che fanno passare la voglia qualche volta agli imprenditori venissero a scemare o a rientrare in una media europea per la concessione appunto di autorizzazioni, questo, gli imprenditori, sicuramente tantissimi imprenditori bravi, avrebbero tanto più voglia di investire. Ma per chiudere, ha notato anche lei, come ci hanno detto altri imprenditori di altre amministrazioni, una tendenza della pubblica amministrazione a non fare per non sbagliare? Cioè, sto fermo perché se faccio qualcosa poi magari rischio di sbagliare, quindi praticamente diventi inutile. È la perversione del gioco delle parti. Sicuramente un'autorizzazione costa una responsabilità e quindi sì, non concederla vuol dire preservarsi da eventuali rischi. Sì, affondare il paese e preservare la tua sedia da eventuali rischi, insomma. Anche perché se hai quel ruolo nella pubblica amministrazione, qualche rischio, qualche responsabilità, visti i diritti che hai acquisiti, ci mancherebbe, devi anche prenderla. In bocca al lupo a Paolo Scudieri, a tutti i Paolo Scudieri che speriamo crescano sempre di più al sud. C'è chi dice, certo che avete una bella, un bel coraggio a venire al sud a parlare di merito. Ecco, proprio il termine è giusto, lei me la fa come critica forse, ma abbiamo un bel coraggio, perché o il paese cambia e cambia tutto, o se no, se continuiamo a dire che il capo non è in grado di giudicarti, che il merito non esiste perché tanto siamo la patria delle raccomandazioni, il sud è la patria delle patrie delle raccomandazioni, sarà tutto vero, ma non se ne esce e stiamo lentamente, neanche tanto lentamente, continuando ad affondare. Grazie a Paolo Scudieri, adesso andiamo sulla borsa. Paolo Paronetto, buonasera, Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera a tutti. -1,20% in Milano nel finale, quindi un calo che è andato via via aumentando, Parigi -0,80%, Francoforte +0,40%, l'America sullo Standard & Poor's 500 è invariata, euro a quota 1,3911, di nuovo il lusso sotto pressione, Ferragamo -3,40%, Yux -3%, poi Campari -1,80%, Tod's -1%, A2A -3,90%, ma aveva guadagnato moltissimo nelle ultime settimane. Sì, esattamente, a 2A qui si tratta in particolare soprattutto di Realizzi, il titolo era andato molto bene e oggi, che è il giorno in cui sono stati pubblicati i conti 2013, è stata appunto l'occasione per gli investitori per passare in parte a Realizzi. I risultati sono stati fondamentalmente in linea con le previsioni e la società ha chiuso il 2013 con un utile di 156 milioni e ha annunciato un dividendo di 3,3 centesimi per azione. Ancora in controtendenza rispetto a un settore bancario, oggi su tutte le borse è pesata anche la situazione ucraina con pesi diversi, una crescita cinese rivista a ribasso, però diciamo in generale le banche si sono mosse male, Intesa San Paolo -2,80%, UbiBanca -3,34%, UnipolSai -2,80% anch'essa, Popolare Emilia Romagna -2% e poi Banco Popolare che perde l'1,40% come le generali. In netta controtendenza il Monte dei Paschi +2%. Sì, certo, il mercato continua ad aspettare novità sul fronte dell'azionariato, si aspetta che la fondazione annunci la vendita di quote prevista dall'accordo di ristrutturazione, ormai che consentiva alla fondazione anche di sottoscrivere parte dell'aumento di capitale, e secondo indiscrezioni in pole position ci sarebbe una crodata guidata dal fondo americano JC Flowers, della partita potrebbe essere anche Blackstone, e si dice che appunto questa cordata potrebbe rilevare una partecipazione di circa il 20% di MPS. E il mercato ormai attende a breve un annuncio sull'ingresso di un nuovo socio della banca, e proprio su queste aspettative oggi il titolo è stato il migliore del FTSE per tutta la giornata. Tu citavi Blackstone, ma c'è un altro fondo che si chiama BlackRock, che è il primo fondo americano al mondo, pensate, che gestisce direttamente asset per oltre 4.000 miliardi di dollari, che era già entrato con il 5% in Intesa San Paolo, diventando secondo azionista dopo la compagnia San Paolo. Adesso, oggi, scopriamo che è anche entrato in Unicredit con una quota identica, praticamente 5,2. Esattamente, in questo caso è il primo socio, e la notizia appunto è di oggi. Diciamo che Unicredit potrebbe averne in parte beneficiato, visto che ha limitato i danni rispetto ad altre banche, ha chiuso in calo dell'1,44%. Bisognava capire se la società, il fondo, ha voluto soltanto sfruttare il recente rialzo del titolo dopo l'annuncio del piano industriale, e quindi se la partecipazione è esclusivamente per motivi di negoziazione, o se invece sarà una questione più a lungo termine. In quel caso ci saranno eventualmente sviluppi sul fronte azionario. Bene, oggi anche Pirelli più 1,20, Saipem più 1, Tenaris più 0,40, dei titoli abbiamo detto tutto, dei cali principali, segnalo solo anche Telecom Italia meno 1,80% come Prismian, l'ex Pirelli Cavi, Autogrill perde l'1,5% come Enel Green Power da un lato, e Ansaldo STS dall'altro. Fuori dal listino principale, migliori e peggiori, Enervit più 10%, Neurosoft più 4,91%, E sull'altro fronte invece Nice meno 9,50, Cementir Holding meno 6,50, Gruppo Green Power meno 6,50 anch'esso, e Monreef meno 5,40%. Grazie e buon fine settimana a Paolo Paronetti e a tutti i colleghi di Radio Corriere Sole 24 Ore. E 20 minuti, ultima parte di Focus Economia qui alla Fiera di Napoli, la Fiera di Oltremare. Allora, dopo aver raccontato con la seconda tappa di Passione Sud, speranze e difficoltà, è chiaro che poi parliamo del Sud perché ne ha di specifiche, ma valgono in molti casi per l'intero paese. Facciamo adesso il punto di una settimana molto molto intensa sul fronte della politica economica. Poco fa è arrivato, adesso ve lo facciamo sentire, anche un commento del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, che rispondendo a una domanda sul premier Matteo Renzi ha detto: indubbiamente Renzi è una persona molto energica, giovane, sembra un motore di Formula 1, il problema adesso è di scaricare la potenza per terra e fare delle cose concrete che vadano nella direzione giusta. E poi ha aggiunto Squinzi: incontrerò Renzi lunedì pomeriggio perché saremo tutti e due a Berlino ad incontrare Angela Merkel e il mio omologo tedesco. Per la verità io incontrerò il Premier lunedì pomeriggio perché saremo tutte e due a Berlino ad incontrare la signora Merkel e il mio omologo presidente della Confindustria tedesca, insieme con una qualificatissima e ristretta rappresentanza degli imprenditori italiani e tedeschi. Quindi per incontrarlo lo incontrerò, se poi ci sarà possibilità di approfondire temi, questo non ve lo posso dire. Allora, Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, buonasera Guido. Buonasera, buonasera. Era stato facile profeta nel dire che ti avremmo riavuto ospite questa settimana. Dunque, sul piano di Renzi è stato detto di tutto e di più, anche sul commento sulle diapositive che proiettava, però noi restiamo sul tema, mi rendo conto, un po' prosaico delle coperture. Abbiamo visto che vorrebbero avere dalla spending review fino a 7 miliardi, ma Cottarelli diceva più 3 che 7, riduzione dell'interesse del debito 3 miliardi, l'IVA derivante dai pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione, che quando appunto le imprese riceveranno questi crediti vi pagheranno l'IVA, 1,5 miliardi, aumento deficit al 3%, sono 6 miliardi, aumento della tassazione delle rente finanziarie che verrà portata, tranne che per i titoli di Stato, al 26%, sono altri 2,6 miliardi, servono 15 miliardi almeno, secondo me ne servono di più, anche perché vuole sbloccare 3,5 miliardi di bilanci nei comuni. Però Possiamo dire che Renzi ha fatto un po' come Cortés, che quando sbarcò in Messico bruciò le navi, come dire, o lo conquistiamo o andiamo avanti, oppure qua non si torna più indietro? Sì, lo possiamo dire, cioè dal punto di vista del metodo io lo capisco, cioè non capisco nemmeno le critiche che sono state fatte sulla sua conferenza stampa, che ha usato le slide e diciamo è stato ricordato Berlusconi per criticarlo, eccetera. Questo secondo me è a poca importanza. La sua strategia mi sembra chiara, quella di andare avanti e cercare di dare una scossa all'economia, che è la cosa più difficile, ma prima di dare una scossa al motore del paese, quindi parlo anche della burocrazia, parlo della stessa compagine ministeriale, che si troverà a fare i conti con i problemi di sempre nella governance del paese, e quindi lui ci prova e diciamo ha alzato di molto l'asticella. E ovviamente il giudizio su di lui sarà sui fatti, e diciamo per produrre i fatti deve cercare anche di mettere a posto le coperture finanziarie, perché altrimenti i fatti non sussistono e non sussisteranno, e questo è il problema che ha. Non è un problema di facile soluzione, e credo che i margini in Europa siano assai stretti, e quindi sarà difficile diciamo aspettarci un cambiamento o una svolta totale della politica europea su questo punto, e quindi con pazienza ma anche con molta determinazione dovrà prendere in mano soprattutto, a mio avviso, il dossier della spending review, e da lì di trovare diciamo il cuore delle risorse. Eh sì, perché da come la vedo io, cioè adesso lui incontra la settimana prossima Angela Merkel, e lì dovrà cercare, non dico una sponda perché è difficile che i tedeschi ti diano una sponda, però quantomeno non averli contro, ecco, mettiamola così, e rassicurare i tedeschi. Però dall'altro lato, quando parliamo di spending review, tutti ci concentriamo, Guido, sui i soldi che dovrebbero arrivare da una rimodulazione della spesa pubblica. Sì. I 3 miliardi indicati da Cottarelli su 5, Renzi dice fino a 7. In realtà, a mio avviso, il vero tema lì dentro è che questi soldi arriveranno levando potere a diciamo parte della pubblica amministrazione. È inutile girarci attorno, perché i soldi sono potere. E lì, oltre che la riforma della pubblica amministrazione, ma dico, lì potrebbero esserci le resistenze dei capi dipartimento, come le chiamiamo noi, insomma di chi fa della presenza in quei ruoli chiave elemento di potere fine a se stesso. È quello che abbiamo assistito nel corso degli ultimi anni, che un po' è un tratto caratteristico della nostra storia politica ed economica, però negli ultimi anni questa cosa si è molto rafforzata ed evidenziata. Non a caso Renzi sta cercando di portare quella che viene definita, chiamiamola così, la cabina di regia, che tra l'altro evoca delle volte delle operazioni che sono state a somma zero poi alla fine. Comunque lui vuole portare la cabina di regia a Palazzo Chigi, e questo è evidente fin dal primo momento. Quindi secondo te è vero quello che si legge oggi? È vero quello che si legge oggi, che c'è un tentativo non di limitare, ma insomma di riportare Cottarelli sotto di sé, anche con Padoan, insomma di avere comunque l'ultima parola? Sì, è un tentativo. Devo dire che da un punto di vista del metodo è giusto, nel senso che siccome l'ultima parola spetta alla politica, e noi sappiamo che poi quante volte abbiamo avuto dei rinvii su questi terreni perché la politica poi alla fine non sceglieva. Quindi lui, secondo me, si appresta a scegliere, e fa bene da questo punto di vista. Quindi si prende il dossier, se lo porta sul tavolo a Palazzo Chigi e dirà: qui si taglia e qui non si taglia. E quindi questo fa bene a farlo. Ovviamente è un'operazione ad alto rischio, perché il paese non è abituato a una strategia del genere. Sì, è più abituato a un compromesso in cui teniamo a galla tutti quanti. Ho visto di nuovo oggi, per concludere, una botta e risposta tra Poletti e la Camusso. Secondo te, la luna di miele con i sindacati, ammesso che sia mai iniziata, è già finita? Secondo me non è mai iniziata, che la sua idea rompere lo schema rigido della concertazione paralizzante c'era prima, c'è oggi e ci sarà soprattutto domani. Ora è evidente che di fronte, dopo aver prospettato un diminuzione dell'IRPEF sul lavoro per 10 miliardi, ci mancherebbe altro che i sindacati, diciamo, alzassero le barricate su questo, ma diciamo già sul terreno dei contratti a termine, come diciamo alcune critiche che ho visto nel sindacati e anche nello stesso PD e sugli altri terreni che di volta in volta arriveranno, io mi aspetto una contrapposizione forte, diciamo, tra i sindacati e il governo Renzi. Grazie anche a Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore, e a me non resta che ringraziare come sempre Mauro Del Conno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione anche questa settimana, Pietro Lacorte per l'assistenza in regia qui a Napoli e Davide Cioccia per l'assistenza di bassa frequenza. Focus Economia torna lunedì dalle 17, ma Passione Sud continua perché mercoledì prossimo saremmo a Bari. Grazie a tutti voi, in bocca al lupo anche ai presenti. Da Sebastiano Berigioni, l'auguro di un buon fine settimana.